attenzione Luca si ascolti, Luca Flipper. Hola, CQ, prova, sì, 1, 2, 3, prova radio, CQ, 1, 2, 3, sì, prova radio, uova. Chi è? Ah, è Ghicco. Chi è? Aspetta che mi avvicino alla radio, che sono lontano. Sta uscendo male, che sì? Ah, perché tu bene stai uscendo? Sta uscendo male. Magari mi ascolti male tu. Ma che sei, Tino? Ehi, ma a come mi stai ascoltando? Oh, la modulazione è strana. Strana, aspetta un attimino. Aspetta un attimo. Allora. Prova adesso. Guarda un attimino come sta andando. Adesso va bene, no, ci avevo inserito il coso dello spostato. Aspetta un attimino. Deia. Oh, guarda adesso. 9.40, sì, a Vuglia. No, vabbè, la modulazione ha cambiato ora. Fa un passaggio da prima a dopo. Questa è 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova microfono, aspetta. E questa è l'altra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova microfono. Questa qua è migliore, più chiara. È più alta anche, è vero. Questa qua è perfetta, invece l'altra rimane un po' più passò, più satura rimane. Saturazione A, linea all'altra. Questa qua va bene, questa qua va benissimo. Andare. E poi, da solo? Cos'è, sì? Questo da solo, sì. No, ho appena acceso, 5 minuti fa. Ho appena acceso questa qua per provarla, il 7000. Va bene. Non è super amplificata, però va bene. Sì, ma non mi interessa a te, tanto mi sta arrivando anche l'altra adesso, non mi interessa, comunque va bene sì, dai, no, non è che mi... Questa qui l'avevo presa come ricevitore, si può dire, non per andare in aereo. Andare, sì, basta il segnale, non è che sia altissimo, prova. Aspetta un attimo, guardami adesso il segnale com'è, Tino. Vai, da 8 a 9, però ti devi ascoltare con l'altra radio, aspetta. Via. Bene, prova ora. Via, vedo un po' adesso, che poi provo alzare a vedere se cambia qualcosa. Vedo un po', 1, 2, 3. Sì, lo stesso, fai da 7 a 9. Da 7 a 9, aspetta un attimo. Vedi adesso se cambia qualcosa. Adesso sì, 9-10, però senza picchi positivi. Ok, dai, perfetto. Dai, adesso ho messo tutti i watt della radio. Sì, 9-10. Diciamo che non hai picchi positivi, mentre invece prima facevi da 8 a 9 e niente, eri in positivo. Vabbè, dai, allora mettiamo così. Guarda adesso com'è adesso. Così l'ideale, perché fa da 9 a 9-10. Così sto uscendo con 8 watt. Anche 10 mettile. Andare. Prova 10. Vedo un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Così va bene. Bene. E questa non ti piace la modulazione, questo è il 60, eh? Sì, va bene, però preferisco più l'altra. L'altra è un ZG, capito? Almeno questa è più selettiva la cosa, l'altra è un po' più spartana. Ce la fa più rauca la radio col 60. Perché sono rauco io, mi sto appena alzando e quindi ce l'ho così. Adesso qua, se vuoi ti faccio anche un'altra radio, spero che provo a sapere, devo guardare il canale. Prega, prova l'altra, vedrai. No, non fa, aspetta. Devo accendere, allora, questo è intatto, aspetta un attimo. Eccomi, ci sono, sì. No, questa proprio lascia perdere questa, ti sembra dentro un barattolo. Barattolo, aspetta, allora, com'era il volume? Guarda un attimino se ho aumentato qualcosa. No, troppo metallica rimane. È un P5 strano, è questo. Mamma mia, è il P5 quello, il primo che è uscito. Eia, il primo proprio, quello che ha... Perché io ne ho tre MP5, quello che ha la LED nero. Sì, ho capito, ho capito. No, questa qui è proprio negativo, ho con tutti. Giusto così. Questa qui comunque va bene la mia, con microfono suo normale. Sì, caspita, bella chiara proprio. Il microfono l'ho messo al massimo, tanto ho visto il microfono è normale, che cazzo devo mettere? Più che il microfono non posso aumentare. No, ma è normale, è chiara, quindi va bene. Questo qua è 7000. Bene, l'altro lo devi prendere. Ah, non avevi quello nero. Non ho capito, te no? Non avevi quello nero? C'ho anche quello nero. Qui andava bene. La Galaxy stai dicendo? Cazzo. E cazzo, quello lì va bene, sì. Quello lì c'ha la scheda a corso. Quello va meglio, secondo me, come radio, Sì, come radio, sì. Infatti mi dicono tutti di abbassare quando siamo qua vicino. Allora devo abbassare il mic, perché sta uscendo con il microfono normale, anche quello. Sì, va bene. E Luca, lo sentite? Non ho sentito, io l'ho appena acceso adesso. Non stai lavorando tutti? No, ci abbiamo preso le ferie. Noi abbiamo già sto lavorando, ma siamo in ferie adesso. Devo fare una cosa a casa. Ah, ho capito. E adesso la maggior parte vanno tutti in ferie, fine settimana. Vanno tutti in ferie e riprenderanno fine agosto. Ma anche noi dal 20 al 24, il 20 o 24 dovremmo rientrare. Vabbè, adesso la maggior parte è normale che chiudono tutti. È normale. Cazzo. Andare, poi non faccio niente. Sono fermo, ho fatto due giornate lì a... dove c'è il 2F, stavamo intonacando un carrasso perché era tutto quanto buciardato e quindi gli abbiamo fatto tutta la rasatura sia nelle pareti e nel soffitto. Non mi ricordo, o sbaglio, non eri tipo guardia o qualcosa? Che cosa? Se non mi sbaglio, non stai facendo guardie o qualcosa del genere? Faccio il mestiere mio è la guardia giurata. Prima facevo posatori di marmi su a Milano, ero in proprio, ero scritto alla Camera di Commercio, poi me ne sono andato e mi sono andato come guardia giurata al Matta sui portavalori, facevo servizio. Come mai hai smesso? Lascia perdere, sì, che facevi 18 ore, 16 ore al giorno che stavo uscendo di testa. Avevo anche cazzo i bambini piccoli, anzi, cioè, ne avevo uno all'epoca. Ed ero più in servizio che in famiglia. Purtroppo è così. C'è un amico che lavora, non so dove, comunque Nord Italia stesso. È sempre un bel ore, adesso ti faccio un bel ore. Il lavoro qua non manca, cioè, però sto più con il lavoro che con la famiglia. Guarda, io ho fatto adesso le domande qua, vediamo un po', lì alla Mondia, poi l'ho fatta lì dove c'è al quadrato, che c'è quella, il palazzo, dove c'è il bar, sopra il bar, c'è una vigilanza lì. L'ho fatta anche lì, e ho fatto domande anche lì nelle vigilanze di Cagliari. È nulla, non c'è quella. Sì, già c'è, solo che chiamano a chi vogliono loro. Devi essere in contatto, capito? Oggi adesso è così, funziona così. Che schifo, che insomma, c'è sempre questa cosa qua, purtroppo. Io, guarda, non ci voglio più ritornare su perché non ci voglio più ritornare, ma se salirei su tornerei intorno a lavorare lì dove ero prima nella vigilanza, ma è troppo cara la vita, non ce la fai perché cazzo pagavo 800 euro di affitto, poi c'avevo la macchina e pagare luce, quello e quell'altro era da spararsi. Cavolo, 800, tra una cosa all'altra, hai fatto un milione di stipendio. Te lo sto dicendo, facevo 16 ore al giorno, ti stavo dicendo, facevo più, ero più in servizio che a casa, ero sempre fuori, sempre in divisa e mai tempo libero. Con quei servizi lì arrivavo, guarda, 1500, prendevo facendo tutte quelle ore lì, fate il conto, una miseria. Sì, effettivamente non era un granché, per quello che facevo non era un granché. No, ma no, non ne vale la pena, ma stai scherzando. Vai lì a lavorare, sì, trovi il lavoro, ma travagli, va pagati l'affitto, la luce e a mania, cazzo già ti mani. Un caso, vabbè, speriamo bene, rimboccati le maniche. Ma sto facendo sempre domande, ho fatto anche la domanda balancellare un anno fa. Però quella lì è volontariato, ti pagano annuale, vabbè, però qualche cosa è niente, anche lì è tutto bloccato con questo cavolo di Covid che è uscito e quindi è tutto fermo. Sì, per il momento è così, ma è un casotto, esce che facciamo squillo a Lucca. No, perché non spegnete i baracchini invece? E questo masso chi è? Questo masso che è entrato? La superimpotenza. Impotenza? Ah, io ho aumentato l'amplificazione. Che ti stavo per chiamare, per sentirti. Aumenta l'amplificazione, aiuto. Ah, vero. Ah, hai capito, Ginko? Entra masso, chietto, chietto, e poi scivola nelle ninfere dell'inferno. Lo faccio per solidarietà. Sì, ma l'ho preso per me, no? No, per Manuele. Ecco, adesso va, ha chiuso tutto, Manuele. E già lo so lui che quando entra la superimpotenza deve chiudere subito. Che vuoi che ti dica? Oh, mi ha chiamato Fabrizio adesso, come va che la sua? Chi? Avevo trovato la foto ieri. Ah. Bello. Ma ah, vabbè, mi sto facendo a scendere due lampadari che da soli del mare. Chiappa, chiappa, scendi. Dai, ci sentiamo un altro giorno, che mi stacco. Ciao Tino, ciao Luca, che sta passando Tonino, che dobbiamo andare a prendere delle robe. Tonino Mimosa. Cos'è, Osti? Ho detto Tonino Mimosa. Vabbè, salutalo. Via, un attimo al telefono. Via, ciao. E lui? Beh, al computer. Faccio computer, sono guardando qualche interfaccia, ma ho scaricato già un radio deluxe, sto usando quello adesso. Ah, ho capito. Ma non hai preso il cappetto? No, te l'ho detto, ti ho mandato messaggio. Sì, strano. Se me l'ha detto mia madre quando mi ha visto uscire pure. Ti ho detto quanto sei strano, come ti ha detto? Ma ha detto, ma chi è questa specie di extraterrestre? Brutto come la paura. Oh, è così. Questo disgraziato non sta facendo più ricariche, questo Giampiero. Ah, è vero. No, vabbè, era per vedere se... Ma che poi magari prendo qualcosa sbagliato io. Cosa? Ho detto, sì, che magari poi prendo qualcosa sbagliato. No. Non si sa mai. C'è poco da sbagliare. Ti ho dato anche il link, se non sbaglio. No, sto leggendo un centino di vietri di balneazione a Ecimanno. Per valori fuori norma, può essere. C'era Sandra ieri. Certo, no, beh, sarà. C'era Sandra ieri, non mi ha detto niente, vuol dire che nessuno gli ha detto niente. Può essere. Che è avanti? Mica siamo in AM, o si è spostato? Boh, non si capisce niente. Chi è? Hai ragione, ciao Luca. No, sto uscendo dal camper, sto provando, questo apparecchio dal camper, cosa mi ascolti? Bene, in camper sì. Ah, sono qua alle saline. Ancora lì, ma non sei rientrato, no? No, negativo. Non sto pilotando con un lineare da 50 watt, 100 watt, dai. Mi ascolti, Cino, mi ascolti tu? Sì, ti ascolto, Santiago quasi 7, radio 5. Ma mi hai detto che il 14 non c'è bisogno di lineare. Vabbè, l'ho attaccata a provarla, vero, ma stavo uscendo. Cazzo, manco la vivo, sì, fra. Ma tu non te ne è andato, aiù. Ciao, dico, buonasera, aspettate, fai sentire tu. Boh, questo entra, esce, fra, per carità, ma sto andando e poi sbuca dal niente. Stavo dicendo, fra, no, va bene, come radio va benissimo, però voglio dire, se non se l'antenna non lo sopporta, è inutile che gli metti i lineari. No, sto uscendo con una frusta nera di quelle da un metro, dai. Ui, cambiate la voce che spara di più. E ora ci metto, una tela più piccola. Ma io avrei messo la PLC1000. Non ce l'ho la PCL1000, ce l'avevo, l'avevo data. Vabbè, per me, secondo me, poi gli altri possono dire quello che vogliono, io l'ho sempre avuta. E per me, ripeto, secondo me è la migliore. E infatti se la trovo qualcuno di seconda mano la prendo o chi? Guarda, la PLC 1000, 2001 è quella che per me va migliore di tutti. Gara, vabbè, l'ho messa dietro il cassone questa antenna. Così, capito, giusto per provare a vedere se andava. Però non è che c'ha molta resa come antenna, capito? Vabbè. Luca. Sì, qual è il mare? Il mare è bello, vento di terra, di libeccio, cioè sempre questo vento brutto. Ma meno male che il tempo sta tenendo ancora. Ho perso una data più grande di me ieri, che fanculo. E perché? Perché? Allora, sono lanciato, data. L'avo troppo piccola, si è slamata, l'ho portata a 20 metri e poi ha mollato tutto. Ah, io ti metto a pescare, le orate avevamo piccolo, bottino. No, veramente c'avevo due ami innescati col cannolicchio, erano due di ami, capito? Sì, vabbè, dai, me la ritento stasera, vediamo un po'. Devo bene, andiamo in circolo io, che cosa, è che devi intoppare il giorno giusto. Io avevo visto una gara di pesca lì, avevo preso un bel po' di roba, solo che era una nottata giusta, diciamo, perché perlomeno quando ho pescato io lì non ho preso niente. È la giornata, infatti, sì. Si pesca a mare calmo qua. Quando c'è mare non prendi niente, capito? A mare è proprio calmo. Ma lo sai che domenica o ti... davvero una marea di besciareggio che se ne mangiava te mo se gava stesso Maria. Sì, lì molto spesso lo fa, però vabbè, una bagnasciuga, dai, di vicina. Ehi, ma un metro d'acqua, sì. Ah, sai, vi mo se gava i polpacci, stesso Maria. Vabbè, tanto già non c'è poco, non ci vediamo mangiare. Stavo dicendo, Luca, a te come ti sto arrivando lì? Forte sì, qua, forte. Segnale non te lo posso dare perché è avaro questo Smith, capito? Però la radio 5 a bomba. Stavo dicendo, ma mai ti che ti arrivo più basso, a te non ho capito, Vabbè, tieni conto che Luca, linea d'aria, confronto a me più alto, Io sono sempre in periferia della veloce, però sono in un buco, quindi sono molto più basso di lui. Gava, andar bene meta. Tanto è vero che Luca dovrebbe arrivare più forte di me anche. Allora, Luca mi sta arrivando 9.10, 9.15 qua. Alle saline, io sono alle saline dove ci sono tutti i camperisti. .com. Bene, io invece con questo non arrivo. Fai un passaggio. Vedi un po', guarda. 8.5 CT. Aspetta, guarda bene. Cos'è 8.5, 8.5. Sì, pompa il blu. Vabbè, sei a 9, 9, 10, dai. cosa è passato? Una stufetta. Aspetta, guarda bene, cosa bombo, bombo, che è questa nostra radio. 150 volte della radio, presento in linea, bobo, mezzo confronto. Cioè è passato da 8 a 9.10, 9.15 adesso. Sono più basso io di lui, hai capito? Ma lo sai che ce l'ho io, ma di cui c'ho un lineare, un BV 131. No, oh, ma questo non è 131, questo è 136. Cosa c'è? La vedova? No, no. È uno da macchina, un 747. Ma cosa 747, figlio? Lo dica. Con quattro ventoli attaccati, c'è 747, boh, mai visto. Ma Luca, 747, questo è cosa tu fai? Si chiama 747, allora. Vabbè, che fatto con i 50 miei naturali, va. Cara gara. Però qua se la trovo una di quelle Sigma 1000 me la prendo, secondo me. Eppure voglio chiedere quanto questa nuova. Ma io penso che sugli 80 euro credo che fosse, non so. Devo chiedere a Fusaro quanto viene. Ah, prende usata, 20 euro a ciappi. Vedi l'ho preso, Pure 30 euro se l'avete trovato, ma non è truffi. Beh, quando? Guarda su Facebook lì. Devo vedere un po', dai, do un'occhiata magari, vedo un po' se ne trovo qualcuno. Comprare la nuova non conviene più ormai, ma. Va Luca, non compro più nulla. Questa antenna è giusto per mettere nel camper e basta, se no. Non è vale la candela, Luca, capito? Per quello ti dico, poi sono usato che spendi un terzo e funziona nella mattesi, perché molti stanno vendendo che non se ne faccia più nulla, che non vuoi più nessuno intanto. Ma infatti. Guarda su Facebook lì che ce n'è sempre di antenne. Gaba gaba. Volevo provare l'eco in questa radio a vedere come funziona. L'eco. Sì, aspetta. Così a ripetizione. Adentro Luca, se ascolti qua questa piccola modulazione, cambio. Ma niente di che. Anche io, non è che c'è, ma c'è leggera. È un S9 questo qua, ti capito. Solo che c'ha l'eco non mi piace di nulla, tu. Cioè, quello è regolato bene, no? Cappa. Io facevo le 14, fratello, no? Sembra strano che non si faceva andare così. Per carità, esce di lì. Prova, cambio. Adentro Luca, se ascolti questa piccola modulazione dalle saline del Tintino, capo. Sì, chissà perché l'hanno fatto. Potevano fare, secondo me, migliore l'eco dell'S9. Visto che è una bella radio. Hai capito, Francolino, cambio. E Luca queste cose non le può fare, capo. Adesso Dino, se ascolti qua questa piccola modulazione, cambio. Mica attacco l'M600 che te lo faccio vedere io a te, te faccio schiattare. E ascolti questa piccola modulazione da Tintino, dalle saline, capo. Però aumenta un po' l'eco, sennò ascolto solo la formulazione l'eco sotto leggero e sottofondo. Aumento, così, guarda un po', capo. Così un pochino meglio, va. Aspetta, lo togliamo, sennò Luca mette a piangere e dice io non ce l'ho e quindi così si offende. Guarda un po' se ascolti questa piccola modulazione dalla città di Tintino, capo. Va bene, lasciala così, se la vuoi utilizzare in questa posizione. Capa. Ma non è che mi piace a volte a me lei così, da fastidio, capito? Anche io, vedi che ce l'ho, però non la utilizzo, ce l'ho così per giocare. Una bella radietta ho questa, spinge bene, però lo sai qual è il problema? Che non lo porto mai al massimo, adesso sta uscendo praticamente. 20 watt, cioè lo posso aumentare anche a 50, Allora aumenta, non fa niente. Non fa niente, gli fa cosa la batteria di un camper? Ah, ecco, vabbè, quello sì. Ma sai perché? Perché sto finendo di collegare il pannello solare, capito? Devo finirlo, volevo mettere due cappuccetti sulla, due borsetti sulla batteria e poi sono a cavallo. Così automaticamente te la carica. E allora posso uscire anche con 50 e più la capo quel di Arezzo. E la faccio uscire con 120 watt, dai. Va bene. Un bel vento c'è. Sì, vento ce n'è un bel, gente ce n'è un bel. Però adesso stanno cominciando a ritirare. Mi passa ancora un po' di nuovo. A Londra. Adesso io sto aspettando che se ne vanno via i bagnanti. Così dopo piatto le canne qua. Cappa. Dove hai preso il camper, fra? No, non è il mio, è da... della mia compagna, non è mio, capito? Un po' vecchiotto, però già va bene, dai. Un Ducato, un 2005 turbo diesel. Sì, ma che arriva già uretto, che non più quadretto, è il frigo pieno di birra, naturalmente. Il frigo l'ho sistemato perché non stava funzionando, praticamente funziona a gas, a 12 a 220. Ebbene, non funzionava in nessuna maniera. No, l'ho sistemato, c'era un'interruzione, c'era un fusibile bruciato dalla centralina. E poi a gas non stava funzionando perché c'era l'ugello ostruito del pilottino, capito? C'era una fiammella, praticamente non usciva gas da lì e quindi automaticamente non scaldava e non raffreddava. Tu già sei frigorista, queste cose già le sai. Ah, io già mi ricordo tutte, giusto. E l'ho sistemato tutta la centralina, tutti i fili, ho fatto un bel lavoro, dai. E adesso va bene, diciamo che potrebbe andare bene. Adesso mi sa cosa mi manca, ci devo mettere il televisore dentro. Ma la sera ci fa vedere di lui. Con Franco. Dove? A Sentino. Tu non arriva qua, no? Io ogni tanto sbuca fuori la bocca e la testa qualcuno. E il volte non può spuntare fuori la lingua. Buonasera. Ciao, Franco. Vabbè, dal momento che togli la testa togli tutto, eh? No, la testa già si può togliere. Non sono a casa io. Mi sto godendo finalmente un po' di estate. Cosa stavo dicendo, lui? Sono entrato proprio per quello. A quanto lo vendono al chilo? Cioè, a quanto te lo pagano al chilo d'alluminio? Non lo so, quant'è. Tu non lo sai, Tino? No, poi non ho mai venduto. Cazzo, stavo facendo un paio di calcoli, cazzo. Io viene poco intanto di alluminio. Per quello che c'è in mansarda e le antenne da fare a pezzi, mi sa che esce un'altra antenna nuova. E poi se c'è le bobine con il rame anche, non sarà molto però. Sì, ne ha bobine il rame, sono certo. Sì. Vabbè, bisogna che... Ma se chiamo, chi è quello che paga di più, Cosmino o Marcello e Tavolo? Non lo so, io se vuoi mando un messaggio a Danilo, me lo faccio dire da lui. Che lui lavora da Marcetto. Prova a vedere, a ver quanto paga, orientativamente, non è prezzo, non mi interessa quanto fai pulizia, invece neanche qua in campagna un po' di alluminio, a vedere quanto, più o meno quanto lo pagano al chilo, là. Glielo sto mandando. Avanti Fra, ma non senti a Franco, sta? Non arriva qua in campagna, Franco, mi senti? Cappa Claudio, sì, ti ascolto, dai, Santiago 5, sì, Claudio, non so se mi ascolti. Adesso sì, deve essere che hai toccato qualcosa, hai aumentato, hai attaccato il lineare, hai ammazzato delle varie. Santiago 3, Radio 5. Ammazzato delle varie. Ho dovuto attaccare perché non mi senti Vattino, mi senti Valucco, non mi senti Vittù. Si sente l'attacco, lo stacco. Vabbè, qua è un po' coperto per te. Poi questa antenna attaccata all'albero non è che funzioni molto bene. Fino arrivo a Santiago 9, ce l'ho di fronte. Va bene, dai, vi saluto, ciao Cla, ci sentiamo dopo che finisco di piazzare questo, di collegare questo pannello solare. Ciao Tino e ciao anche a Luca, dai, a dopo, ciao. Ciao Fra, e mi ho finito adesso di mettere due ganci tassellati a terra per la tenda del gazebo, dai. Avanti Tino, riprendi. Diga, dai, anch'io devo mollare che devo venire a prendermi perché non lo volevo a casa. Ciao Fra, ci sentiamo, dai, già sta arrivando sempre, non c'è problema. Poi te l'ho detto anche ieri sera. Va bene. Ciao Claudio, ciao Luca. C'era un altro che stava chiamando, non so se lo ascoltate. Fatelo entrare, dai. Ciao, QRX per me. Ciao, ciao, ciao, le flusce. Ciao Claudio, saluta in casa anche da parte mia, ciao a tutti, QRT momentaneo per me, riprendo dopo, ciao ciao. Ciao, ciao Fra, poi già ci sentiamo al telefono, dai, ciao, ciao. Saluta mia Lucia. Sono in ascolto, Lu, fammi sapere quando ti risponde, dai. Sì, dai, anche io intanto sono al PC. Va bene, appena mi risponde te li faccio sapere subito. Mi ho mandato già il messaggio. Sì, io già sono qua in ascolto, dai. Ciao. Ciao, ciao. Attenzione Luca, Flipper. Luca, Flipper, ci sei? Ora? Attenzione, canale 23, cambio. Oh, oh, oh, oh, 1, 2, 3, prova, cambio. Nessuno su 23, cambio. Chi è avanti? Giovanni.